lo scarabeo e il filo di seta. C'era una volta un re di nome Vance che governava il regno di Aradona. Il re e la regina avevano una bellissima figlia di nome Mira. Era una principessa intelligente. Tuttavia, Mira era molto ribelle e non le piaceva ascoltare i suoi genitori. Adorava andare fuori nel bosco e con le sue amiche, passare del tempo nella natura e giocare con gli animali. Ciao, bellissimo cervo! Hai fame? Vorresti mangiare delle foglie? Ehi, non dovresti andare alla cena reale? Io? Ah! Sembra che il principe di Escasia sarà lì. Sentite, ragazze, non mi importa di nessun principe. Le regole del regno mi danno fastidio fino alle ossa. Oh, ok. Andiamo al fiume. Su, ragazze. Ora sì che parliamo. Nel frattempo, il re e la regina erano seduti al tavolo da pranzo, in attesa dell'arrivo della principessa Mira. Rosy, dov'è tua figlia? Nostra figlia. Sì, mi sta mettendo in imbarazzo. Possiamo sperare che la principessa si unisca a noi presto? Oh, temo di no, perché non si sente molto bene. Oh, capisco. La cena reale andò bene e gli ospiti si prepararono per partire. Mentre uscivano dal regno, videro la principessa Mira ridacchiare e ridere mentre entrava con la sua amica Alicia. Oggi è stato divertente. Sì, dovremmo farlo di nuovo. Questo fece arrabbiare Re Vance e la regina Rosy. Non dissero nulla e tornarono nel loro regno. Una sera, la principessa Mira stava giocando a nascondino con le sue amiche nel bosco. 5, 6, 7, 8. Mi nasconderò proprio qui dietro di lei e la spaventerò. No, è l'ultima partita della serata, rendiamola divertente. Mi nasconderò lontano. Fallo anche tu. 9, 10. Pronti o no? Arrivo! Mira corse e si nascose rapidamente dietro alcuni cespugli. Non mi troverà mai qui. Proprio allora, Mira poté sentire alcune persone mormorare. Nella notte di luna piena, tutto ciò che dovremo fare sarà cospargere alcune gocce di questa pozione attorno ai giardini del regno. Questo renderà la famiglia reale così malata che nemmeno i migliori dottori potranno salvarli. A quel punto andremo noi, spazzeremo l'incantesimo e quando ci chiederà cosa vogliamo, gli chiederemo di consegnarci il regno. Se non rispetterà la nostra richiesta, lo imprigioneremo. Sembra un buon piano, eh? La principessa Mira rimase terrorizzata nel sentire questo. Devo farlo sapere a mamma e papà prima che sia troppo tardi. Ah, ti ho presa! Sembra che non fossi pronta, oh? Ma che ha? Penso che qualcosa non vada bene. Mira corse verso il regno per informare il re e la regina. Il re era molto arrabbiato. Madre, padre, ero nei boschi e... Non voglio più sentire parlare dei tuoi stupidi giochi, Mira. No, padre, ho sentito... Ho detto che non mi importa. Beh, è piuttosto grave. Mi vuoi ascoltare? No, tu ascoltami. Non ascolterò le tue storie, anche se avessi incontrato dei maghi. Beh, l'ho fatto. Ah, esatto, Mira. Mi hai messo abbastanza in imbarazzo, fuori dalla mia vista. Va in camera tua, Mayra. Bene, bene. Inoltre, devi comportarti più come una principessa. Domani verrà a trovarci il principe di Escasia. Chiederà la tua mano in matrimonio. La principessa Mira si arrabbiò e si precipitò fuori dalla corte. Il giorno successivo, il regno di Aradona fu decorato a festa perché il principe del regno vicino, Escasia, andò a chiedere la mano della principessa in modo da stringere un'alleanza. La principessa Mira si vestì malvolentieri. Si sedette a corte. Piacere, principessa Mira di Aradon. Ciao, principe vicino. Il mio nome è Julius. Sì, sì, lo so, me l'ha detto mio padre. Mira non mostrò neanche il minimo interesse e si comportò come se non le importasse. Dopo aver provato alcune volte, il principe Julius alla fine si arrese. Più tardi quel giorno, prima di partire, parlò con il re Vance. Spero che tu ti sia divertito qui, principe. Mi sono divertito molto, vostra maestà, ma non credo che la principessa sia interessata al matrimonio. Ha detto che non vivrà a lungo, dato che non vuoi ascoltarla. Oh! È davvero sciocca? Davvero? Ok. Bene, mi sono divertito. Grazie per la cortese accoglienza. Adesso devo andare. Ma Julius non si fermò. Si era già girato per andarsene. Ciò rese il re Vance molto turbato e andò immediatamente a trovare la principessa Mira. Ma quando raggiunse la sua stanza, scoprì che lei non c'era. Ah! È di nuovo nei boschi! Non mi lascia altra scelta ora! Il re ordinò alle sue guardie di trovare la principessa Mira e catturarla. Le guardie titubarono, ma seguirono comunque gli ordini del loro re. La principessa Mira fu catturata e portata dal re. Lasciatemi andare! Il nostro regno è in pericolo! Guardie, portatela alla torre! Cosa? No, padre! Ma il re Vance distolse lo sguardo. La principessa Mira venne portata in un'alta torre e rinchiusa. Pianse amaramente e poi si addormentò. Il giorno dopo, quando si svegliò, corse alla finestra e vide passare la sua amica Alicia. Alicia! Alicia! Myra? Cosa ci fai lassù e... Wow! Che bella torre ti hanno regalato i tuoi! Sono imprigionata, sciocca! Adesso tirami fuori di qui! Il regno è in pericolo e i miei genitori non vogliono ascoltarmi! E come? Pensi che possa farlo? Fammi pensare... Va bene! Prendi un lungo filo di seta, uno scarabeo, un filo da pacchi, uno spago robusto, una lunga corda e del miele. Va bene. Non guardarmi così. Vai a prenderli. Va bene, non devi urlare. Alicia andò a prendere ciò che la principessa aveva chiesto. Informò anche Natasha e le due fanciulle e insieme tornarono alla torre. Alicia aveva trovato lo scarabeo, il filo di seta e il miele, mentre Natasha la lunga corda, il filo da pacchi e lo spago robusto. Ok, fate come dico, ragazze. Legate il filo di seta allo scarabeo. Mettete del miele sulle corna dello scarabeo. Alicia e Natasha erano piuttosto perplesse, ma fecero quello che diceva, poiché si fidavano sempre di lei. Fantastico. Ora, lasciate che lo scarabeo salga sulla torre. Cercherà il suo miele e andrà avanti. E come aveva detto, lo scarabeo camminò avanti mentre era legato con il filo di seta. Lo scarabeo raggiunse la cima della finestra della principessa. Nel frattempo, le ragazze legarono l'estremità del filo di seta al filo da pacchi. Bingo! Principessa, non devi più insegnarci! Abbiamo capito! Mira sorrise con orgoglio alle sue sagge amiche. Natasha legò il robusto spago e infine la lunga corda. Mira finalmente tirò lo spago e prese la lunga corda. Ha! Scese dalla torre mentre le ragazze l'aspettavano. Ora è il momento di fermare i maghi. Natasha, Alicia, legate il filo di seta attorno agli alberi su entrambi i lati del sentiero nel bosco e nascondetevi dietro i cespugli. Io mi occuperò della lunga corda. Roger, sorella. Mira corse nel bosco e vide i due maghi che camminavano verso il regno. Si nascose dietro i cespugli e vide la pozione magica nella loro borsa. Con cautela si diresse in punta di piedi verso di loro e tolse silenziosamente la pozione magica dalla loro borsa e poi si nascose di nuovo dietro i cespugli. Proprio allora i maghi si fermarono per bere un po' d'acqua Uno di loro guardò nella borsa e rimase sbalordito. La pozione magica è nella tua borsa? Certo che no, ce l'avevi tu. Non la vedo. Come puoi essere così responsabile? Ehi, state cercando questa? Imbrogliona! Torna qui prima che ti lanci un incantesimo! Provaci! I maghi cercarono la bacchetta, ma non riuscirono a trovare nemmeno quella. Oh, povere anime! Sembra che abbiate perso anche la vostra bacchetta! Questo fece arrabbiare molto i maghi, che iniziarono a inseguirla. Ma Mira fu veloce e corse verso la trappola. Saltò oltre il filo di seta. Mentre i maghi la inseguivano, non notarono il filo. Inciamparono e caddero. Wow! Natasha e Alicia rapidamente li catturarono e Mira li legò con la corda. Ha! Vi sta bene! Sentendo questi rumori, il re e la regina andarono a vedere. Il re vide due maghi legati, le ragazze e Mira. Cosa sta succedendo qui? Questi maghi traditori stavano progettando di lanciare un incantesimo e uccidere tutti noi per prendere il regno. Ho dovuto fermarli prima che fosse troppo tardi. Ma perché non me l'hai detto prima? Non mi hai lasciato parlare, padre. Questo fece sentire il re Vance molto imbarazzato. Non posso dire altro se non... Ti chiedo scusa, Mira? No, padre, non voglio scuse. Hai fatto la cosa giusta dalla tua parte. Ora, diamo una lezione a questi maghi? Sì, guardie, portateli nei sotterranei. La guardia venne e portò via i maghi. Pagherai per questo, re Vance? Pagherai per questo? Certamente. Mira e le ragazze fecero le linguacce ai maghi. Ragazze, penso che dovreste rimanere nel regno stasera e cenare con noi. La regina ha ragione. Vorremmo anche premiarvi con la dovuta gratitudine. Oh, maestà, penso che la cena sia abbastanza. Sì. Re Vance, la regina Rosie, la principessa Mira e le ragazze sedettero a cena. Le ragazze banchettarono e si gustarono il loro cibo. Improvvisamente il re ricordò qualcosa. Aspetta un minuto! Myra, non eri rinchiusa nella torre? Come hai fatto a uscire? Lei... Sì, l'aquila. Sono salita su un'aquila enorme. Aveva quasi le dimensioni di un grifone. È stato divertente. Beh, la prossima volta che ti imprigioneremo dovremo assolutamente mettere delle guardie lì in piedi a scacciare le aquile.